Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. A quei tempi capitava spesso di vedere ragazzi giovanissimi girare come zombie per la città. Non si parlava di Don Ciotti, Don Gelmini o San Patrignano. I drogati, come li chiamavamo allora, erano abbandonati a loro stessi. Avevano bisogno d'aiuto, ma l'aiuto non c'era. Io non sapevo da che parte cominciare. E allora fermai il taxi davanti a un bar ed entrai per fare delle telefonate. Sono Maurizio Giordani, vivo a Roma. Ho una compagna per un figlio di quasi 22 anni. Faccio il tassista. Io ho 62 anni. Taxi! Ecco, richiamando storie di persone che vivono in questo paese, in quest'epoca, e ascoltano la radio, e magari anche no. No, magari no, direi di no, perché altrimenti non potrebbero sentire la richiesta di storie. Ma ascoltando la radio, vivendo la propria vita, ricevendo storie di persone che appunto vivono la loro quotidianità, lavorano, mangiano, hanno una vita come tutti quanti, arrivano storie che riguardano non solo persone, quindi non sono solo storie di umanità, piccole schegge di umanità, ma riguardano anche categorie. E quindi mi capita spesso di avere a che fare, grazie a questo programma, con persone che fanno mestieri totalmente diversi, persone che altrimenti nella mia vita non incontrerei mai o le incontrerei molto difficilmente. Non è questo in realtà il caso, perché oggi si parla di taxi, visto che il protagonista di questa storia e autore della storia è un tassista. E taxi, per quanto ne prenda pochi, perché appunto giro in Vespa quando sono a Milano e cerco di prendere i mezzi quando sono altrove, per quanto ne prenda pochi, però i tassisti sono una categoria che ha molte cose da raccontare, ha molte storie da raccontare, proprio perché caricando in media quante persone al giorno, dopo glielo chiedo a Maurizio, credo tra le 5 e le 10 persone al giorno, immagino a turno, forse di più anche, si incontrano proprio le vite di quelle persone e le storie di quelle persone. Ecco perché questa puntata è dedicata alle storie che sono capitate ai tassisti nella loro auto. 349-238-6666 oppure 800-24-0024 se siete al vostro parcheggio e quindi non state guidando, o magari siete a casa e ascoltate il programma, anche perché so che ci sono molti tassisti che ascoltano in particolar modo Radio 24. 800-24-0024 con 2T, il 4 mi raccomando, e 349-238-6666. La storia più assurda che vi è capitata sul taxi. Quella di Maurizio, più che assurda, è una storia che racconta quasi un'altra epoca, perché appunto è difficile vedere persone che si aggirano sotto l'effetto di droghe così pesanti come capitava anni fa. Però racconta un pezzo di vita sua, un pezzo di vita della persona che ha caricato e com'è finita. Io ricordo tra l'altro che il ricordo più vivo che ho di un taxi è credo il primo taxi che ho preso da solo, che è stato non in Italia appunto, che era stato a New York, dove ero arrivato, ero in ritardo, non avevo la valigia perché me l'avevano smarrita, e poi volevo prendere un taxi perché appunto a New York c'è quell'immagine dell'auto gialla, e mi ricordo questa tassista che evidentemente era abituato a portare gente che dall'aeroporto andava a Manhattan, e a un certo punto dietro la curva mi indicò il panorama e mi disse: questa è la tua città, e c'erano i famosi grattacieli, quelli che più o meno conoscono tutto. 349-238-6666. Giorgia mi ha scritto un messaggio sul profilo Facebook del programma parlandomi di un episodio che le è capitato. Lei non è una tassista, però mi ha scritto una tassista su Facebook l'altro giorno, non mi ricordo come si chiamava, però Giorgia scrive: ero a Genova, giornata di lavoro pesante, passata a camminare, salgo in taxi e il tassista mi chiede come va. Rispondo: sono esausta, i piedi mi fanno malissimo. Arrivata a destinazione si gira, mi prende un piede tra le mani, mi toglie la scarpa e inizia a massaggiarmi. Vi lascio immaginare il mio terrore misto a imbarazzo per il gesto così personale. Da allora niente chiacchiere con i tassisti. Anche questa cosa mi domando sempre quando salgo su un taxi: ma un tassista ha voglia di chiacchierare oppure no? Cioè, ha voglia? Perché vabbè, questa è un po' compulsiva, un problema mio quello di fare un sacco di domande, e quindi le faccio anche alla persona che sta guidando. Lo capisci subito se uno non ha voglia, perché ti risponde a spizzichi e bocconi. Però questa è un'altra cosa che vorrei capire. Cioè, avete voglia di chiacchierare con le persone che salgono in macchina? Avete voglia di conoscere quelle storie oppure anche no? Perché magari può essere faticoso sapere entrare in quei 5-10 minuti, un quarto d'ora, entrare nella vita di una persona che poi piglia e se ne va. 800240024 oppure 349-238-6666. Siamo arrivati qui perché qui è arrivata la storia di Maurizio. Tassina, mi devi aiutare. Ho buttato via tutto, non voglio più drogamme. Tra poco vado in crisi e devo trovare un posto dove mi possono curare. Però prima dovevamo sistemare sto gattino. Cominciò così quella corsa, tanti anni fa. Stavo fermo al posteggio del Palazzo dell'Esposizione in Via Nazionale, quando salì sul mio taxi. Aveva forse qualche anno più di me. Giovane, magro, con la faccia tirata, sofferente. Le braccia piene di buchi e un gattino piccolo tra le mani, raccolto chissà dove. Ed era chiaro che sarebbe stata una corsa a perdere. Una di quelle che raccogli solo guai e se ti va bene non guadagni niente. Ma sono partito comunque. Il gattino lo sistemiamo subito. Mi ricordavo di aver visto alla fine di via Cavour, verso i Fori Imperiali, un ambulatorio della protezione animali. Pochi minuti e siamo lì. Non fanno problemi. Al gattino ci pensano loro. Il problema ora è sistemare lui. E anche in fretta, visto che c'era il rischio che si sentisse male da un momento all'altro. Mi aveva spiegato che non poteva rivolgersi a un ospedale perché al posto di polizia lo avrebbero identificato e spedito in galera. C'era già stato diverse volte in carcere e aveva sofferto da morire, buttato da una parte a torcersi per le sofferenze causate dalle crisi di astinenza. E poi in carcere aveva ricominciato a bucarsi. Io ho cominciato nel 1971, pensa. Cambiato proprio l'atteggiamento della gente. È più difficile, insomma, non lo trovo più complicato. A parte il traffico, che naturalmente non può che aumentare perché non si è fatto nulla per diminuirlo. A quei tempi capitava spesso di vedere ragazzi giovanissimi girare come zombie per la città. Non si parlava di Don Ciotti, Don Gelminio, San Patrignano. I drogati, come li chiamavamo allora, erano abbandonati a loro stessi. Avevano bisogno d'aiuto, ma l'aiuto non c'era. Io non sapevo da che parte cominciare. Fermo il taxi davanti a un bar per fare delle telefonate. Cerco sull'elenco telefonico un numero che potesse in qualche modo essermi d'aiuto. Ma niente da fare. Provo allora con il centralino. L'unico numero utile che riescono a darmi è quello di Voce Amica. Allora chiamo, espongo il problema alla voce amica dall'altra parte del telefono. Gentile, ma non gliene frega niente da aiutare un drogato preso per la strada. Sono demoralizzato e torno nel taxi. È una sera abbastanza dura perché tu stai in mezzo alla strada tutto il giorno. Quando ci sono 40 gradi in vettura e stai fermo al parcheggio di aspettare i clienti in estate. Oppure d'inverno quando fa il turno di notte fa freddo, insomma. È pericoloso perché c'è un modo diverso di guidare, la gente sta su di giri per diversi motivi e quindi devi fare molta, molta attenzione. Io penso che sia anche una scuola di vita, insomma. Guardo negli occhi quel ragazzo e gli dico che non so proprio cosa fare, che lo posso portare all'isola Tiberina, che c'è un ospedale ancora gestito dai frati, che magari loro lo possono aiutare. Lui sorride anche se sta male. Arrivati davanti al pronto soccorso lo aiuto a scendere e vedo che lui tira fuori dalle tasche tutti i soldi che ha per cercare di pagarmi la corsa. Se sapessi come aiutarlo me lo porterei a casa, ma ha bisogno di qualcosa di più, di uno sconosciuto con un minimo di umanità. Ci salutiamo con una stretta di mano. Abbiamo condiviso un'ora della nostra vita e mi sembra che ci conosciamo da sempre. Lui mi ringrazia e io gli faccio in bocca al lupo. Sono passati tanti anni da quel giorno e di ragazzi persi nella droga ne ho visti molti. A volte però ancora mi chiedo come sarà andata a lui, alto, magro, con le braccia piene di buchi e un piccolo gattino in mano. A long winter and a red hot summer. Don't remember very much about that year. What I recall is fear of falling in love while I was in this. Quando uno ha visto Taxi Driver, lo capisce subito che quel mestiere lì ti mette in trincea, anche se non sei a New York. Non c'è bisogno che sulla tua macchina salga Martin Scorsese e ti chieda di aspettare sua moglie che deve ammazzare con una 44 Magnum, o Jodie Foster che prova a scappare dalla sua vita di prostituta bambina. Ci sono mille persone e mille storie molto più normali che ti possono spiazzare e sorprendere, che ti insinuano dei dubbi e che ti richiedono freddezza e presenza di spirito. Io lo so perché avevo uno zio di secondo grado che faceva il tassista e ho sempre desiderato fare il suo mestiere. Non aveva cartellini da timbrare e non aveva capi a dirgli cosa dovessero fare. Faceva una cosa e la faceva bene. Portava le persone dove dovevano andare e se c'era bisogno le andava a riprendere. Senza fare domande o senza fare distinzioni. E diceva che se vuoi conoscere il mondo basta ascoltare cosa fa la gente sul suo taxi. Questo forse era un po' esagerato, però è sempre stato un po' esagerato lui in tutto. Ogni tanto mi raccontava delle storie che gli erano successe e secondo me alcune in realtà se le inventava. Però a me piaceva sempre un po' crederci. Mi ha raccontato di quando ha caricato Mick Jagger nel 1970 per portarlo al Palalido. Era un periodo in cui ancora le limousine private non c'erano e quindi anche i ricchi e famosi prendevano il taxi. E allora Mick Jagger è uscito da un albergo di lusso ed è salito sulla sua macchina con una ragazza di fianco. Avevano tutti e due i capelli lunghi e una mantella colorata, che non si capiva chi era lui e chi era lei. Ma erano quegli anni lì, quelli di Sympathy for the Devil, quelli di Brown Sugar, è andata ancora bene che non gli avessero vomitato sui sedili, mi diceva. Mio zio non è uno che dà giudizi sulle persone, però tiene molto alla sua macchina. Mick Jagger era seduto male, coi piedi appoggiati sul sedile davanti. E allora quando sono arrivati in piazzale Stuparich lo ha fatto scendere senza fargli pagare la corsa, perché era arrabbiato. Invece Mick Jagger credeva fosse un atto di deferenza e gli aveva dato un biglietto da $100. Mio zio quel biglietto lì lo tiene ancora. Un'altra sera invece, molto più di recente, ha caricato uno che gli ha chiesto di portarlo a Roma, da Milano, che sono 600 chilometri, non è così poco. Gli ha detto che aveva perso l'aereo e doveva essere a Roma la mattina dopo e che i soldi non erano un problema. È lavoro e lavoro, ha pensato mio zio. E allora gli ha proposto una tariffa forfè, altissima. La quale è andata bene, che gli aveva già detto che i soldi non erano un problema. Per tutto il viaggio è andato avanti a botte di caffè e radio col volume alto per non addormentarsi. Il passeggero è rimasto in silenzio. Eppure mio zio, che ogni tanto con i clienti ci parlava, ma che stavolta è rimasto zitto, un po' per timore, un po' per rispetto, che poteva essere un malvivente o un pezzo grosso di qualche società, un romantico innamorato o un pazzo. E comunque era strano. Ma questa storia non va avanti più di così, perché quando lo ha scaricato in zona euro alle 7 del mattino il tizio gli ha allungato i soldi in contanti e niente di più. E mio zio dice che il sonno che si è fatto sul sedile del taxi alla fine di quel viaggio è stato il più bello e profondo che abbia mai fatto. E ci sono altre storie, e soprattutto non si contano le coppie che salgono e cominciano a baciarsi, e anche di più, perché quando sei innamorato non capisci dove finisci tu e dove comincia l'altro. E allora stai sempre attaccato, e il taxi diventa un rifugio dove ci si può nascondere dal mondo che ti guarda, e si può stare con chi ami, e fare tutto quello che non puoi fare su un marciapiede. Perché il tassista gira lo specchietto dall'altra parte, non vede e non esiste. Che non è vero, ma tutti lo pensano. E mio zio mi ha sempre detto che a lui certe cose non piacciono e si imbarazza, ma quando la gente si vuole bene, chi è lui per dirgli di smetterla? E anche per questo mio zio mi è simpatico e volevo fare il suo lavoro, perché vive e lascia vivere, perché è una brava persona e perché è libero. Mia moglie un po' di anni fa è successa una cosa incredibile. Era a Parigi con suo padre per lavoro, dovevano rientrare a casa, presero un taxi e andarono all'aeroporto. Arrivati a destinazione, suo padre smonta, scarica la valigia e lei rimane dentro per saldare il conto. Il tassista prende e parte. Suo padre è pietrificato, lei in panico. Non esistevano telefonini e mia moglie cerca di fermare il pazzo, ma senza successo. Dopo circa 10 minuti il tassista si ferma e solo allora le fa capire che soffriva di epilessia e non si ricordava niente di quello che era successo. Non so se è compatibile però il mestiere con quella malattia. E poi, ma sbaglio o stai facendo romanticismo apologetico della droga? No, guarda, non è che ti sbagli, è che hai proprio dato una cazzata. 349-238-6666 oppure 800-24-0024 se siete dei tassisti e avete voglia di raccontarmi la storia più assurda che è successa all'interno del vostro taxi. L'ha già fatto attraverso il racconto e glielo richiedo al telefono a Maurizio. Pronto Maurizio? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, tu come stai? Io sto bene, oddio, sì, diciamo che sto bene. Senti, sei in taxi in questo momento? Sì, sono in taxi, mi sono fermato da una parte, sto lavorando. Ah, stai lavorando, dove ti trovi esattamente? Adesso mi trovo vicino alla stazione Termini. E hai già fatto quante corse? Guarda, adesso guardo un attimo, ne ho fatte 4, da l'una e mezza. E fino a, fino a quanto dura il turno, scusami Maurizio? Questa sera fino alle 21, però c'è poco lavoro e quindi non è che si fanno molte corse. Ma in una giornata media quante corse fai? Ma dipende, mediamente siamo sulle 10-12 corse, insomma. Quindi sono 10, beh no, quindi non sono 10-12 persone, sono magari anche di più, perché ne salgono. Sì, perché magari salgono più persone con una corsa. Però diciamo che in media queste 15 persone al giorno tu le incontri di fatto. Ma sicuramente sì. E da quanto lo fa il tassista esattamente? Più di 40 anni. Quindi niente, non riesco però a immaginare quante persone. Ancora dovevi nascere. Sì, mi sa, direi di sì. Quindi cioè, a occhio, ai 40 anni mi dicono di là, perché io non sono capace con i calcoli. Bonini, che bravo, hai caricato circa 120.000 persone, facendo un calcolo di una media di 15 al giorno per 40 anni. Oltre a questa storia qua, qual è un'altra storia, una seconda storia assurda che ti è capitata? Immagino allora, siano tante, però di recente. Sì, una seconda storia assurda, ma risale sempre che quando ero ancora giovane. Mm-hmm. E allora facevo il turno di notte, ritornavo verso il centro, perché quando si fa il turno di notte a una certa ora si ritorna quasi sempre verso il centro, perché in periferia non ci sono chiamate. Certo. E può essere anche pericoloso stare fermato anche lì da solo. E quindi mi ferma una ragazza, era una prostituta naturalmente, e si mette seduta davanti, e mentre la accompagnavo a casa vedo che ripiegava 10.000 lire, all'epoca 10.000 lire. Sì. Poi a un certo punto infila la mano sotto questa gonna ampia e insomma vabbè, stava manovrando sotto la gonna, e che io gli faccio, dico ma che stai facendo? E dice no, sto nascondendo i soldi, perché quando vado a casa praticamente il pappa, come si dice, uh-huh, a Roma, dice mi leva tutti i soldi, questi sono per mio figlio. Beh, mi ha commosso, no? Perché questa ragazza che rischiava molto, perché... Quanti anni fa erano, scusa Maurizio? Stiamo sempre parlando di una trentina d'anni fa, sicuramente. E quindi tu hai fatto qualcosa per lei? Io non ho potuto fare niente, io l'ho accompagnata a casa, uh-huh, abbiamo parlato un po', però mi ha fatto tenerezza questo fatto. Lo immagino. Intanto questa situazione in cui si trovava, di questa persona che la teneva proprio organizzata. E poi il suo pensiero per il figlio, no, di nascondere in un posto particolare, insomma. Che... Certo, in modo da non farli trovare, quantomeno. Sì. Senti, allora, Maurizio... Poi c'è anche la rapina, poi ci sono altre cose. Quando stai nel taxi può succedere di tutto. Come si decide di mettersi su una macchina e guidare tutto il giorno per 40 anni? Ma guarda, io pensavo di farlo 3-4 anni, poi dopo alla fine mi sono trovato incagliato dal destino e comunque a 40 anni. Senti, invece un'altra cosa che mi incuriosisce, questo è proprio voyeurismo puro, ma tipo personaggi famosi che hai caricato, qualcuno che sai che poi va, che poi te li giochi a cena, no, con i parenti, sai, dal vivo in realtà è più grasso, oppure no, in realtà è più simpatico di quanto sembri, o il contrario? Guarda, Fellini era un cliente abituale dei tassisti, e lui abitava vicino a Piazza del Popolo e quindi gli abitava molto frequente di prenderlo, e si metteva davanti, si metteva davanti, ti faceva abbassare la radio, il radio taxi, uh-huh, perché all'epoca era vocale, e poi sì, parlava qualche volta così, però ti accorgevi che lui stava proprio in un altro mondo, insomma. E poi ho preso Mastroianni, ho preso Sting, insomma, ho preso diversi, insomma. Ma senti, Gassman. E la gente ha voglia di parlare quando sale sul taxi, oppure, cioè, la sensazione è che la gente si voglia fare fatti propri, o che abbia voglia di raccontare qualcosa, un po' come se voi foste dei confessori laici quasi? Ti capitano situazioni dove la gente si sfoga e poi magari dice ma perché sto raccontando tutto a lei, no? Perché va bene, fai un po' da psicologo, però a volte c'è gente che parla solo per chiacchierare, ma magari ti dice che tempo fa, oppure ce la farà pagare perché fa molto caldo. Poi io non riesco a capire chi è che ce la farà pagare, insomma. Comunque vabbè, insomma, dico le cose più assurde. Però io generalmente parlo quando vedo che dall'altra parte c'è voglia di parlare, e magari anche l'argomento è interessante, perché se devo parlare delle stupidaggini, insomma, se no ti fai anche fatti tuoi. L'ultima cosa, Maurizio, è: hai la radio fissa su Radio 24 sul taxi, oppure? Sì, ce l'ho memorizzata su Radio 24, sì. Okay, quindi cioè, non ti fai un tuo palinsesto personale, cominci quando sali sul taxi e accendi Radio 24? Sì, Radio 24. Sì, Maurizio, sì, ti ringrazio per la chiacchierata e soprattutto per il racconto e buon lavoro. Ciao Matteo. Ciao, grazie mille. Ciao. Voi siete qui. C'è un uomo appoggiato al vetro, probabilmente di un negozio, che però riflette come se fosse uno specchio. Ha una borsa a tracolla e ha qualcosa in mano, probabilmente è un hamburger, evidentemente. È un uomo con i baffi, potrebbe avere tra i 50 e i 60 anni. Si guarda lui, è la prima cosa che si guarda. Però dietro di lui, sullo specchio, sul riflesso del vetro dell'edificio o del negozio, si vede un taxi. Quello che vede scritto non è una foto che ci ha mandato Maurizio, il tassista che abbiamo sentito prima, che ci ha mandato la storia. Perché non è riuscito a mandare? Perché non ce l'ha fatta. Non ha trovato il modo per spedircela. È in realtà una foto presa da un sito molto interessante che mi ha fatto conoscere Tiziano e che ho caricato sul profilo Facebook del programma Matteo Cacci, che sono qui. È un più che un blog, direi che è un sito che si chiama Drive by Shooting. È la storia di questo designer, fotografo, comunque artista americano, credo, che ha deciso di fare il tassista. E facendo il tassista ha semplicemente cominciato a scattare delle fotografie del mondo visto dal suo taxi, delle persone, nemmeno solo delle persone, perché se andate sul sito, che è drivebyshooting.com, ci sono proprio categorie che sono abstract, cioè quindi oggetti, soggetti astratti, personaggi al lavoro, pubblicità, uccelli, ponti, edifici, notte, persone, e sono migliaia di scatti del mondo visto dal suo taxi. È un bel sito della serie se avete 5 minuti di tempo e non sapete come tirare alla fine della vostra giornata, ma d'altra parte se non sapete come tirare alla fine della vostra giornata di lavoro state su Facebook, quindi probabilmente è meglio dare un occhio a questo sito. A proposito, abbiamo ricalcolato il numero possibile di persone che potrebbe aver caricato Maurizio sul suo taxi e abbiamo detto 163.000, considerando anche le ferie, cioè 40 anni, 15 persone al giorno. C'è un'altra persona però che ci ha scritto, che evidentemente è una persona che ascolta il programma e che passa la sua giornata in taxi, anche se di fatto nella vita si era, come dire, preparato per fare altro. Luca, pronto Luca? Ciao, come stai? Bene, grazie. Non sei in taxi, a giudicare dall'eco che si sente? No, ho finito il mio turno alle 4, quindi proprio poco fa. Che turno hai fatto, scusami, quindi? Dalle 6 alle 16. Ma quante ore sono di turno esattamente? Sono 10 ore. Aspetta, dalle 6 alle 16 sono 10 ore? Esatto, sì, i turni sono turni di 10 ore l'uno. Ah, ok, c'è qualcuno che trapana tra l'altro dietro casa sono tua. Sono le gioie della vita condominiale, sì, è meraviglioso. Senti, Luca, tu mi hai scritto questo messaggio, cioè tu hai 28 anni, giusto? No, io ne avevo 28, ne avevi 28 quando ho iniziato a guidare il taxi. Quindi ne hai 38 adesso. Esatto. Ed eri laureato, avevi un posto da addetto stampa in una casa editrice importante che era la Rizzoli, e hai mollato tutto e sei salito su una macchina. E la prima domanda è perché, banalmente? Perché mio padre era un tassista e io sono cresciuto avendo davanti a me l'esempio di un uomo libero, libero dentro, davvero libero, capace di essere se stesso. Questo è... Ma scusami, perdonami, come si lega? Non è possibile che tuo padre fosse una persona libera e indipendente perché umanamente era così e non perché era legato al fatto che stava al volante di un'auto? Perché non capisco sinceramente come si lega questo aspetto col fatto di fare un lavoro che, va bene, non è un lavoro come un altro, però è un lavoro alla fine, no? Te lo spiego in due parole per avere provato anche un'esperienza lavorativa diversa. Bravo. Non hai un ruolo. Io quando facevo l'addetto stampa avevo un ruolo e questo ruolo inevitabilmente mi portava a guardare le persone e la vita da quel punto di vista, con tutto ciò che di positivo e di negativo c'è. Quando ti butti su una strada non sei altro che la persona che guida, e questo ti lascia una libertà meravigliosa, se la vuoi prendere, di guardarti intorno senza avere un paio di occhiali che ti fanno vedere le cose dalla tua angolazione. Guarda, sai cos'è? Che probabilmente io, per motivi di scetticismo mio, cerco sempre di evitare dei romanticismi legati ai mestieri, no? Soprattutto per il mio, cioè per quello che faccio, per cui cerco di considerarlo un lavoro come un altro, anche se parlo davanti a un microfono per 45 minuti al giorno. continua però a sfuggirmi, ad esempio, la questione del ruolo, cioè semplicemente cioè, tu guidi un taxi e hai il ruolo di una persona che sta in macchina e dà un servizio pubblico a delle persone che devono andare da un posto a un altro. L'addetto stampa che facevi prima era una persona che aveva un ruolo, cioè non so se mi spiego, mi sembra che di fatto poi col tutto che immagino sia un mestiere di estremamente faticoso, proprio perché è anche pericoloso, continua a sfuggirmi il motivo per cui ci sia quest'aura di romanticismo intorno al concetto di libertà di chi sta seduto alla guida di un taxi. Capisci quello che intendo dire? Sì, certo. Tieni conto che io l'unico vincolo che ho è quello del rispetto per le persone, per esempio. Certo, vabbè, quello giustamente. No, beh, è importante. Cioè, tu puoi essere nella relazione con le persone, puoi essere completamente spontaneo. Quando io parlavo con il mio amministratore delegato, non potevo essere. Ok, ho capito. È una forma di democrazia da cabina, insomma. Se mi sale sul taxi, io gli offro il massimo rispetto, ma instauriamo una relazione tra due esseri umani e ce la dobbiamo giocare per ciò che siamo, senza alcun romanticismo. Ok, ok. È solo che saltano questi paletti. Senti, tu quanti, hai detto 10 anni, quindi sempre una media di 15 persone al giorno anche per te, più o meno, Luca? Certo. Giusto, quindi niente, certo. Adesso fare i calcoli di quante persone hai incontrato e rientriamo nel solito loop. Luca, senti, io ti ringrazio comunque per... Tu ascolti solo Radio 24, di la verità. Solo Radio 24. Io ascolto solo Radio 24, dove purtroppo, se mi consenti una piccolissima punta di polemica, ho sentito una cosa molto poco bella sulla vendita delle licenze che non è guarda, questo Luca, invece Luca, devo guarda, però, solo dire una no, cosa sai, guarda, io te lo lascio dire, il problema è che questo non è il posto, capito, per farlo. Quindi no, lo so, infatti raccontavamo mi dispiace storie, questa cosa, raccontiamo però, storie. Però ti racconto la mia storia. Va bene, comunque ascolti Radio 24. Naturalmente Bravo. Sempre 24. Ti ringrazio Luca, buona giornata. Ciao, grazie mille. C'è un pezzo che se faccio in tempo vi leggo. Facciamo in tempo, sì facciamo in tempo. È un pezzo preso da un libro di un tassista newyorkese che si chiama B.U. Matthew, che quindi non è newyorkese, ovviamente è, credo, pakistano, che è stato scritto durante la famosa rivolta dei taxi a New York. Questa è la testimonianza di un tassista newyorkese. Io voglio essere sincero con voi e dirvi cosa faccio quando guido. Discrimino. Ma discrimino non perché ho qualcosa contro una comunità o un'altra, perché ho il noleggio dell'auto da pagare. Se prendo una corsa per il Bronx durante l'ora di punta, quando faccio la maggior parte dei miei incassi a Manhattan, sono fregato. Mi ci vogliono, diciamo, 3/4 d'ora per arrivare nel Bronx e altri 3/4 d'ora per tornare. Questo se il traffico è intenso ma scorre, come di solito nelle ore di punta. Ma se resto imbottigliato sulla FDR, potete aggiungere al tempo perduto un'altra mezz'ora o addirittura un'ora. Avrò fatto $15 in 2 ore, mentre in centro avrei potuto farne 40 o 50. Se ne incasso 15 in 2 ore nell'ora di punta, potete scommettere che me ne tornerò a casa con le tasche vuote. E allora provate a indovinare cosa faccio. Cerco di capire chi potrebbe andare fuori Manhattan e lo evito. E lo faccio anche con indiani o pakistani. Non mi va di andare a Flushing o a Brighton Beach durante le ore di punta. Anzi, andare a Wakefield nel Bronx è molto meglio che andare a Flushing Meadow o a Giamaica. Ovviamente, di notte, tengo d'occhio i viaggiatori a scrocco. Ce ne sono a centinaia in città. Neri, bianchi, bruni. Gente che sale in taxi, ti fa fare una corsa da $10 e poi in una strada a senso unico salta giù senza pagare e scappa nella direzione opposta. E cosa posso farci? Niente. Dire addio ai miei $10 e tornare indietro. È inutile dirlo, a volte sono semplicemente spaventato. Guardo qualcuno e ne ho paura. Mi direte che in quel momento sono razzista, perché l'unica via per cui arrivo alla conclusione che qualcuno è pericoloso è attraverso determinati stereotipi. E vi do ragione. Ma sono stato rapinato sotto la minaccia di una pistola mentre ero nel mio taxi e non ho voglia di correre rischi. Taxi Bamako, où tu veux je t'emmène? Taxi Bamako, tu m'appelles, je suis là, je suis le plus rapide. Tu es ma seule cliente, je fais ma course au ciel. Où tu veux je t'emmène? Tu t'assois, je conduis. Taxi Bamako, taxi Bamako. Grazie per chi mi ha scritto un messaggio al 349-238-6666 che dice: poi ti scrivo una mail, Guido. Grazie Guido. A questo punto io voglio assolutamente sapere cosa c'è in questa mail. Mandamela immediatamente, appena puoi. Diego mi scrive: la differenza tra ruolo e posizione è lampante. Boh. E poi ancora, no vabbè, questo no. No, no, questo non posso leggerlo. È finita. Grazie a quelli che hanno fatto il programma anche oggi. Sono Stefano D'Andrea, Tiziano Bonini, Paolino Corleoni e Margherita Ina. La storia di oggi era la storia di Maurizio e parlava di taxi. La storia di domani è la storia di Marta e parla di saper far ridere. E poi all'improvviso, ecco, l'insegnante mi ha visto. Io mi sento al liceo quando cercavo di nascondermi raccogliendo qualsiasi cosa da terra. Ehi tu, lì in fondo, sì tu, vestita di rosa, vieni avanti. Sono proprio io. Vorrei tirare fuori la giustificazione della mamma, chi me l'ha fatto fare? Io che divento rossa ancora adesso. Io, alla soglia dei 30 anni, vestita da angioletto senza ali, alto 1,72 m.